Uno degli argomenti che secondo noi oggi tra i più importanti è la questione del rinnovo di questo memorandum d'intesa tra Italia e Libia per il contenimento, ecco, insomma, dei processi migratori della Libia. Porteremo, diciamo, la nostra visione come mediterranea riguardo questo memorandum, che consideriamo assolutamente negativo, purtroppo veramente inumano. E ne parlerà Giulio Tappini, che è presidente dell'Associazione Garante di Mediterranea Saving Humans. Avremo anche David Iambio, che è portavoce dei rifugiati in Libia, porterà la sua testimonianza, io credo di grande interesse, perché è una testimonianza diretta sulle condizioni in cui si trovano le persone che vengono bloccate e raccolte nei campi in Libia. La questione è un po' la questione di questi giorni fa, questa del rinnovo del memorandum, e tutta una serie di associazioni, di reti che si occupano di accoglienza, dei processi migratori, eccetera. Poi il 2 ottobre si stanno dando vita a una manifestazione anche qui in città Bologna, proprio seguendo un appello per affinché questo memorandum non sia rinnovato. Ecco. Il senso di questa iniziativa di oggi è portare una discussione aperta con persone che hanno competenza sulla questione e anche testimonianza di quello che comporta questo memorandum sulla vita delle persone. Ci sono anche dei dati che ha diffuso Amnesty qualche settimana fa, produce sì. Morti e come dire, persone imprigionate. Sì, secondo Amnesty negli ultimi anni, mi pare gli ultimi 5 anni, ha fatto questa valutazione, oltre 85.000 persone sono state bloccate in mare e riportate in Libia. Queste persone, la gran parte, hanno subito torture, trattamenti disumani, violenze di ogni tipo, violenze sessuali, stupri, uccisioni, ricatti, cioè è veramente una situazione di una gravità enorme. Senza contare che poi le politiche migratorie del nostro paese, ma anche possiamo dire anche quelle dell'Europa, sono state tali che anziché l'accoglienza hanno privilegiato una sorta di respingimento, quindi tutte le rotte che i migranti utilizzano per arrivare in Europa sono rotte pericolose, purtroppo lo vediamo, a centinaia muoiono continuamente, a migliaia, ecco, tra il Mediterraneo, la rotta balcanica, e quindi questo memorandum noi riteniamo vada assolutamente abolito e superato, ecco, con ben altre politiche. La destra, l'estrema destra ha vinto le elezioni, come dire, per arrivare alla cancellazione del memorandum, la strada è in salita? Probabilmente sì, credo proprio di sì, stando a quanto è stato anche dichiarato nella campagna elettorale da Meloni, dal centrodestra. Certamente non c'è una politica migratoria, non c'è una gestione di questo processo che sia volto all'accoglienza, all'integrazione. Esiste questa idea qua, abbiamo sentito proposte assurde, blocchi navali, qualcosa intanto di improponibile, inattuabile, anche contrario alla Costituzione, perché la Costituzione prevede che sia dato asilo a chi chiede rifugio, ecco, primariamente anche al rifugiato politico, però insomma qui parliamo di persone che arrivano tutte da situazioni di guerra, di fame, di povertà, dove la loro vita è assolutamente in rischio. Vorrei anche far notare il fatto che un po' di anni fa noi abbiamo accolto tranquillamente, senza grossi problemi, parliamo degli anni 80, per dire, profughi da Palestina, da Libano, dall'Iran e dalla Siria. Questo era proprio, come dire, conseguente a rispetto di un progetto costituzionale che oggi è completamente disatteso. Quindi certo è in salita, secondo me, sicuramente.